Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Le nozze. Le cronache dell'incoronazione esaltavano il genio inglese per i cerimoniali. Il matrimonio Potter fu caratterizzato da confusione, malumori e pregiudizi verso la cerimonia religiosa. Bill attese che i preparativi fossero quasi ultimati per annunciare che, come potevano ben capire, non intendeva avallare l'iniziativa entrando in chiesa, nel caso supponessero che volesse accompagnare sua figlia all'altare. Winifred disse «No, caro, naturalmente no», e andò a cooptare Alexander. Alexander, che amava le cerimonie, aveva accettato con entusiasmo. La sposa dava l'impressione di disinteressarsi dei preparativi. Anche lei nutriva una certa diffidenza per la cerimonia. Come la maggior parte delle bambine, aveva giocato in modo rituale, morboso e narcisistico a «le mie nozze». Come la maggior parte delle persone, al passaggio di un'auto ornata di nastri bianchi, allungava il collo per cogliere una fugace immagine della sposa, anonima dattilografa, duchessa, istruttrice di equitazione o insegnante, che non avrebbe più visto né riconosciuto. L'avversione per i rituali della Chiesa era dovuta, per Stefani e la sua famiglia, alla presunta fede di Daniel nell'efficacia reale della cerimonia. Per Stefani non c'era nessun Dio a osservarli dalla croce, a infondere magia all'anello, a benedire mani e sguardi intrecciati. Tuttavia, sarebbe andata in chiesa in una nuvola di veli bianchi. I suoi pensieri indugiavano su aspetti blasfemi e sconvenienti. Aveva sempre immaginato che avrebbe lasciato la casa paterna in un ambiente domestico intimo e solidale, una famiglia a ranghi serrati. La mattina del matrimonio, la casa di Masters Row aveva un'aria spoglia e battuta dal vento, e nei ranghi familiari c'era un grosso vuoto. Si fece colazione prestissimo, e tutte le donne scesero in cucina in vestaglia, spettinate. Bill non era lì, né, si scoprì più tardi, in nessun'altra stanza. Sul piatto di Stefani c'era una busta marrone, con dentro un assegno, a nome di Stefani Potter, di 250 sterline, il che mise tutti molto a disagio. «Non sarà più una Potter quando lo incasserà», fu l'ovvio commento di Frederica. «Immagino che in banca ci siano abituati», disse Stefani. Marcus, in pantaloni di flanella e camicia militare, scivolò silenziosamente sulla sua sedia. «Dove pensate che sia andato nostro padre?» chiese Frederica. Nessuno rispose. Stefani spinse via un uovo ancora intatto. Winifred versò il tè. «Pensate che a un certo punto arriverà?» chiese Frederica. Di nuovo nessuno rispose. Ci fu un lungo silenzio. Frederica disse, «Beh, se nessuno è in vena di conversazione, credo che mi farò un lungo bagno». Winifred si scosse. «Aspetta un momento, dove corri? Di questo dobbiamo discutere. È al bagno di Stefani che dobbiamo pensare, e allo scaldabagno, programmare attentamente, pensare ai tempi, oh mamma, non essere sciocca, ognuno può fare il bagno quando gli pare. C'è un sacco di tempo prima della cerimonia e non abbiamo niente da fare perché tu hai insistito per fare tutto ieri. Così oggi ci tocca stare qui sedute a girarci i pollici per un'eternità, nel caso che esploda lo scaldabagno o i fiori non arrivino e si debba andare a Bledsford in bicicletta oppure...» «Nessuno apprezza i miei sforzi perché tutto vada liscio», disse Winifred a denti stretti. «Sembrate convinti che i preparativi si facciano da soli». «No, no, siamo convinti esattamente del contrario». «Deploriamo questa asfissiante pianificazione di ore di noiosa attesa». «Non mi importa che tanto ci faccio il bagno», disse Stefani. Winifred, cogliendo il suo tono, la guardò con ansia. Lei si controllò. «Voglio dire, divento tutta rosa, paonazza, quindi devo fare il bagno in tempo per schiarirmi di nuovo. Prima il rossore della sposa», disse Frederica. «Chiudi il becco», disse Marcus inaspettatamente. Si voltarono tutte a guardarlo. Lui si alzò, salì al piano di sopra ed entrò in bagno. «Bene», disse Frederica, «io ci andrò dopo Stefani, così potrò starmene a molle e cantare finché non sarò in forma». «Nessuno», ribatté Winifred, «avrà tempo di stare a mollo, mia cara». Invece no, Frederica aveva ragione, c'era tempo in abbondanza. Arrivò il furgone del fioraio con i fiori, la signora Thorne telefonò per dire che il rinfresco era tutto sotto controllo. Bill non si fece vedere e non accadde nient'altro. Le tre donne vagavano per la casa in vestaglia, preparando superflue tazze di Nescafè, lanciando occasionali occhiate fuori dalla finestra. Stefani fece un rapido bagno, Non voleva guardare il proprio corpo e si diresse, rosea, umida, con i capelli leggermente arricciati, nella propria stanza, dove rimase seduta sul letto in attesa del momento in cui avrebbe ragionevolmente potuto cominciare a vestirsi, un momento al quale mancavano ore. La stanza, già normalmente spoglia, adesso era nuda. I suoi libri, i ninnoli sulla mensola del camino, lo sgabello, il comodino, erano stati portati nel suo futuro appartamento. L'armadio conteneva solo gli abiti che non le andavano più, quelli sciupati o che non le piaceva indossare. Nel nervoso tentativo di tenersi occupata, aveva tolto le lenzuola dal letto e piegato le coperte, sulle quali ora sedeva in silenzio, incapace di riconoscere la stanza da cui non riusciva a separarsi perché non esisteva già più. Invidiava Frederica, che desiderava sempre qualcosa, che in effetti aveva già preso alcuni degli oggetti rimasti: un cuscino ricamato, un piattino per le forcine, una stampa della Primavera di Botticelli, il cui riquadro vuoto sulla parete, di un verde più pallido, dava a tutto il resto un aspetto polveroso. Pensò alla propria infanzia, che le sembrò remota. Pensò a Daniel e decise che era meglio evitare. Pensò a Wordsworth e provò un momentaneo sollievo. Winifred bussò alla porta ed entrò indossando un corsetto nuovo e luccicante sotto la vestaglia. Portava l'ennesima tazza di Nescafè. «Ti senti bene, cara?» «Non sono malata». Winifred si guardò intorno nella stanza. All'aria spoglia. «Ho pensato di farne uno studio per lui. Mi dispiace che si comporti così. Non è colpa tua, c'era da aspettarselo. È la tua festa e lui sta cercando di sciuparla». Stephanie vide che piangeva. «Desideravo che fosse tutto perfetto per te. Un vero matrimonio di famiglia. Per te lo sarà». Si guardarono, l'una il riflesso della pazienza sconsolata dell'altra. Le mani di Winifred, infilate nei polsi delle maniche della vestaglia, creavano un cerchio rassicurante intorno al corpo. Stephanie pensò: «Una donna, una casa, una vera famiglia». Lei voleva davvero creare una casa per Daniel. Sopraggiunse Frederica con l'abito di popelin gialla e i capelli trattenuti da un lungo nastro color cioccolata. «Sbrigati!» disse. «Alexander sta attraversando il campo lontano, in grigio perle col cilindro. Pensa che splendore! E tu ancora qui in vestaglia! La festa comincia! Mi presti quel rossetto che hai comprato, Steph, quello delicato? I miei sono troppo vistosi per questo colore burroso. Ci vuole finezza. Non credo che tu voglia una damigella pacchiana. E mi presteresti anche il tuo ombretto verdino?» Senza rispondere, Stephanie le indicò il cassettone e osservò la sorella che si sbruttava il suo nuovissimo make-up nuziale. Si vergognò dei propri pensieri. Quelle cose erano sue, toccava a lei usarle per prima. «Un pensiero da bambina il giorno del compleanno, non da donna», si disse, guardando Frederica, che sputava con perizia sul mascara e passava il pennello sulle ciglia color sabbia. L'ombretto verde le donava. «Ecco fatto. Ora posso far accomodare Alexander mentre ti fai bella. Mamma ti ha stirato le pieghe. Vado a prendere il vestito». «Direi di sì». Frederica le rivolse una lunga, avida occhiata possessiva e schizzò via in un fruscio di gonne di tulle e sottogonna di cotone innamidato. Tornò poco dopo con il sacco floscio di plastica bianca che racchiudeva l'abito e l'appese sulla porta. «Se ti occorre una cameriera personale, urla! Alexander è nel vialetto, vado ad aprire. Spero che non troverà infantile questo vestito giallo». Rimasta sola, Stephanie avvicinò allo specchio la lampada del comodino, il cui paralume era stato anch'esso portato nella casa nuova. Sotto quel bagliore da camerino teatrale, applicò un trucco rapido ed essenziale, si tolse la vestaglia, fissò per qualche istante rabbiosamente i propri seni nudi, poi si lanciò in un turbine di ganci e cerniere lampo. Era tutto assurdo. Uno, due, con un colpo di tallone infilò le scarpe di capretto bianco e in un fruscio di gonne uscì sul pianerottolo. Frederica correva qua e là nell'ingresso in cerca di un guanto smarrito e Winifred, militaresca nel suo lucido blu marina, era alle prese con un cimiero di lino plissettato. Sulla porta c'era un autista in uniforme. Stephanie si fermò sulle scale. «Oh, eccoti! Bene, hai un aspetto magnifico! Alexander è in salotto con i fiori. Se tuo padre torna, digli... non lo so, ma non gli dare corda per nessun motivo. Non dargli corda! Mi stanno bene i capelli dietro? Sembro ridicola?» «Stai benissimo. Non che abbia importanza, comunque. Forse sarebbe meglio se non ci si facesse vedere. Noi invece ci vediamo in chiesa, tra poco. Lo spero, disse Stefani sempre dalle scale. Frederica le sfrecciò davanti gesticolando con un mazzo di fiordalisi e boccioli di rose bianche. Ti dico una cosa, Alexander è di gran lunga il più bel. Mi sento un idiota, disse Stefani. È normale, replicò Frederica con rassicurante disinvoltura e corse fuori. A passi rigidi, Stefani si diresse in salotto. Alexander si alzò dal divano con grande eleganza. Grigio fumo, grigio perla, grigio ostrica. Fece un mezzo inchino e disse: «Ah, lasciati guardare, lasciami vedere!» Stefani era impietrita sulla porta. Le fece segno di avanzare. «Ti prego, vieni avanti. Sono così onorato di questo invito. Potresti alzare un po' la testa? Fa passi un po' più lunghi. Così, ottimo!» Imbarazzata, rischiò di inciampare nel filo del ferro da stiro. Raccolse una piega dello strascico, si piegò goffamente, bianca e frusciante, per staccare la spina. «Faccio io!» disse Alexander. «È così che si provocano gli incendi. Questo lo abbiamo evitato.» Alexander posò il ferro sul ripiano della libreria, infilò l'asse da stiro dietro il divano. Nella stanza regnava un caotico squallore. La vestaglia di Frederica abbandonata sul tappeto, tazze di caffè sporche sulla mensola del camino e sul tavolo, resti di trucioli da imballaggio. In mezzo a tutto questo, Alexander le prese le mani. «Un abito incantevole. Mi sento stupida.» «Perché?» Era emozionato. Detestava il disordine domestico. Non avrebbe mai apprezzato giacche rosso vivo e calzoni bianchi attillati, ma una donna con il velo bianco, un'ampia gonna lunga e una fusciacca in vita catturavano la sua attenzione in un modo che sarebbe stato impossibile a una donna con un grembiule. Ripeté: «Perché? Devi essere all'altezza delle circostanze. Vieni avanti.» La studiò con occhio esperto. Qualche cucitura faceva difetto. In vita un gancio e un occhiello erano cuciti storti. Si era vestita così in fretta che il punto vita dell'abito era rimasto più in basso della fusciacca. Qualcosa non andava nella conciatura. Le strinse le mani per un attimo. «Se permetti», disse, «vorrei sistemarti meglio la fusciacca. Dare un'aggiustatina al velo, posso?» Stefani annuì senza parole. «Sei così bella!» Le mani di Alexander tiravano, piegavano, lisciavano alla cremente attorno alla vita. «Non avresti un paio di quelle piccole spille dorate? C'è un punto qui...» Stefani si mosse bruscamente, con l'impazienza subito repressa, di chi è costretto a rimanere immobile sotto il tocco altrui. Ma le mani aggiungiarono un istante, risolute, sulla sua vita. Stefani cominciava ad abitare il vestito. Drizzò le spalle. «Piccole spille dorate!» disse la bella voce di Alexander, divertita, supplichevole, insistente. «Oh, le piccole spille dorate, accanto allo specchio in camera mia, vado a prenderle.» «No, non muoverti, ci vado io.» Immobile come una colonna bianca, udì Alexander aggirarsi in quella scatola spoglia che era la sua stanza e precipitarsi di sotto. Fu di nuovo nelle sue mani, che drappeggiavano, giravano, infilavano delicatamente una spilla qui, distendevano una piega là. Le riannodò la fusciacca, facendole scivolare le mani sui fianchi e su una natica, suggerendole in qualche modo la posizione che avrebbe esaltato il vestito. La fece ruotare davanti a sé. Le aggiustò pensosamente il colletto, sbirciandone la casta scollatura a V. «Mi sto divertendo», disse Alexander. «Sono così felice di essere stato invitato. Vado a prenderti i fiori.» Si allontanò a grandi passi e tornò con un bouquet di fiori bianchi e oro. Superficie compatta, frusciante, profumata, di rose, gelsomini, frese e fiori d'arancio sulla rigida impalcatura dei supporti metallici. «Non so come tenerlo.» «Ti faccio vedere.» Alexander le porse il bouquet. Lei lo impugnò maldestramente, un accessorio sbilenco e pesante. «No, devi tenerlo stretto, non così in basso. Più su, all'altezza della vita, e stringi i gomiti. E ora non stare lì impalata. Muoviti con leggerezza. Passi lunghi, che partano dai fianchi, e muovi quella gonna. Prova!» Si mosse. Le mani, gli occhi di Alexander disegnavano il suo corpo. Per un attimo ne fu compiaciuta. Squillò il campanello. L'autista era tornato dalla chiesa per l'ultimo carico. Si avviarono insieme verso il piccolo ingresso. Stefani strinse il braccio di Alexander con la piccola mano guantata di bianco. Lui si chinò a baciarle la bocca, poi le coprì il volto con il velo. Con passi precisi e sincronizzati, percorsero il vialetto del giardino e salirono sull'auto ornata di nastri. Viaggiarono in silenzio sotto gli sguardi di capannelli di gente agli angoli delle strade che talora le rivolgevano cenni di saluto, come al passaggio di una principessa. Stefanie mosse con cautela i suoi passi bianchi tra le pietre sconnesse del camposanto, con la mano di Alexander che le stringeva il gomito. Sotto il portico, un tizio con la macchina fotografica si accovacciò con un ghigno, le fece un gesto e la pregò di sorridere e sorridere ancora. Avvolta nel bianco, girò la testa a destra e a sinistra. Un sacrestano vestito di nero la invitò ad addentrarsi nell'oscurità e ritrovò la figura gialla di Frederica che sbirciava con gli occhi lucenti. Tra il portico e la chiesa c'era un sipario di velluto nero, davanti al quale il sacrestano le disse di fermarsi, mentre Frederica ed Alexander le sistemavano il velo e scioglievano le balze delle sottogonne. Il sacrestano disse che al suono dell'organo avrebbe scostato il sipario e aperto con un colpo deciso quella porta difettosa. Stefani doveva stare attenta al vecchio scalino. Solo la settimana precedente una ragazza era scivolata e si era sposata con gli occhiali rotti e un magnifico occhio nero. Frederica scalpitava, pronta a sfilare sola nella navata. Alexander sistemò sul proprio il braccio di Stefani. Si udì l'ansito faticoso di un mantice e poi, improvvisamente, ci fu la musica. Il sacrestano scostò la tenda. Alexander superò lo scalino, Frederica dietro di loro. Il pastore, durante le prove, aveva raccomandato a Stefani di rivolgere a Daniel un ampio sorriso. Lo intravide sotto la scintillante aquila d'ottone del pulpito. I loro sguardi si incontrarono, brevemente, confusamente. Aveva il solito cipiglio concentrato. Come un giardino percorso dal vento, le teste incappellate e floreali dei fedeli ondeggiarono girandosi a guardare la sposa. Giudicavano il vestito, ricordavano con un nodo alla gola di aver vissuto un momento analogo, oppure si auguravano di viverlo presto, spogliavano la sposa con gli occhi, speculavano su quanto sapesse o non sapesse. Rappresentava la loro ambigua innocenza, la loro esperienza passata, presente o futura. Sotto un berretto alla Peter Pan di petali grigi e malva, le guance avvizzite di Felicity Wells erano umide. Alexander si domandava perché la gente fosse così lacrimosa ai matrimoni. Quanto a lui, si sentiva piuttosto soddisfatto. Mentre avanzava per dare quella donna in sposa a quell'uomo, ammirava il risultato dei suoi ritocchi. Gli sposi si fermarono davanti al pastore Allenby, volgendo le spalle ad Alexander. Lei bianca, lui nero, lei aerea e spumeggiante, lui scuro, massiccio, leggermente lucente. Erano entrambi molto solidi. Daniel parlò con voce roca e Stefani con voce chiara e sommessa. Il signor Allenby assunse un tono premuroso, anziché ritualmente ecclesiastico. Aveva riflettuto a lungo sulle poche parole che si sentiva in dovere di pronunciare in quell'occasione. Aveva riletto i soliti commenti sui doveri e le gioie del vero matrimonio cristiano, accantonandoli a favore di qualcosa di nuovo, che in onore della sposa avesse un sapore letterario, ma tuttavia ricordasse con fermezza allo sposo quegli altri voti che aveva pronunciato. Con un tatto che sperava fosse raffinato, il signor Allenby passò dall'epitalamio di Spencer e la celebrazione miltoniana della felicità nuziale di Adamo ed Eva alle unioni bibliche citate nella liturgia matrimoniale, tra cui quella originaria, la prima. Eva è carne della carne di Adamo e ossa delle sue ossa. Marito e moglie sono una carne sola. In un modo che non poteva essere più inglese, nessuno guardò nessuno durante quell'esortazione. Scendendo la scala chiocciola che lo riportava a terra, il signor Allenby rifletteva sull'atteggiamento impenetrabile con cui Daniel aveva accolto le osservazioni che gli aveva fatto in privato su San Pietro, anch'egli uomo sposato, la cui energica esortazione a convertire un coniuge pagano era incorporata nella liturgia matrimoniale. «Anche se non obbediscono alla parola, essi potranno, senza la parola, essere conquistati mediante la conversione delle mogli». «O dei mariti», aveva detto a Daniel, ottenendone un laconico consenso. Talora il signor Allenby lo considerava un mezzo pagano. Stefani gli era simpatica. Paradossalmente era più portata a capire il senso delle sue parabole e allegorie, o quelle di San Paolo, rispetto al suo feroce vicario. Grazie all'ennesimo paradosso divino, la sua casta conversazione avrebbe forse finalmente convertito il suo incorreggibile compagno. E a tal fine bisognava pregare. Poi tutti si raccolsero in sacrestia a chiacchierare. Alexander s'avvicinò alla sua protetta e disse «Un bacio per la sposa, «Prima io», fece Daniel sollevando il velo e baciandola con decisione. La sagrestia era piccola, con le pareti di pietra e un'alta finestrella con i vetri piombati. Marcus provò l'impulso di uscire a respirare. Winifred si asciugò qualche lacrima quando Daniel baciò Stephanie. Firmarono il registro con grafie nervose e filiformi. Stephanie incontrò lo sguardo della madre di Daniel. La signora Orton le afferrò il braccio bianco con la mano minuta e in tono confidenziale le sussurrò con sussiego: «Mi piace quando la gente parla a voce alta. Immagino che il nostro Daniel faccia un sacco di pratica, ma anche tu te la sei cavata bene». Stephanie abbassò gli occhi per guardarla. «Anch'io faccio un sacco di pratica col mio lavoro». «Già, suppongo di sì. Quando mi sono sposata ero così intimidita che non riuscivo a cacciar fuori più di un bisbiglio. Avevo la gola secca e tremavo. Tu invece sei stata fredda come un ghiacciolo». «Ancora non mi sembra vero», disse Stephanie. Commento scontato, ma sincero. Non le piaceva essere toccata. Si sarebbe volentieri scrollata dal braccio quelle dita d'unche. Erano coperte di nylon trasparente a pois grigi, attraverso il quale la pelle assumeva strane sfumature, terracotta, marroni e bluastre. «Te ne capaciterai a poco», disse la madre di Daniel con una certa maligna soddisfazione. «Non credere che ci si abitui subito». Diede un breve quanto perentorio strattone al braccio di Stephanie per annunciarle una confidenza, e Stephanie si chinò ad ascoltarla. Aveva scoperto, di fatto era l'unica cosa che sapeva di lei, che la madre di Daniel osservava la vita attraverso un flusso di aneddoti infinitamente dilatabili e infinitamente autoreferenziali. «L'altra notte ho sognato di essere di nuovo giovane, e c'era un giovanotto di cui ero molto amica e stavamo passeggiando, e lui mi corteggiava e io dicevo: beh, non so, forse, vedremo, e per tutto il tempo sapevo che c'era una ragione per cui non potevo, tu mi capisci, qualcosa che avevo fatto e poi dimenticato. E quando mi sono svegliata mi sono guardata intorno e ci sono voluti 5 minuti buoni prima che mi ricordassi che ero una donna sposata e vedova, con il padre di Daniel sepolto ormai da 13 anni. Mi sono sposata nel 1922 e mi era tutto sparito dalla testa. Che strano. Era così naturale essere giovane corteggiata, come se tutto il resto non fosse successo, come se non mi fossi mai davvero resa conto del matrimonio, anche se è vero che Brian non c'è più da molti anni. A volte mi guardo le mani e penso: a chi appartengono allora? A una vecchia? Ma eccoci qua. Lui sarebbe stato contento di vedere il nostro Dan sposato. Avevamo paura che non ce l'avrebbe mai fatta, essendo così religioso, una cosa che scoraggia la gente, e per giunta così grasso, il che naturalmente l'ha reso timido. Ma è un bravo ragazzo, a modo suo, te lo assicuro. E suo padre sarebbe stato orgoglioso di vederlo così ben sistemato. Stephanie continuava a curvarsi stupidamente su quella nuova madre, incapace di trovare una parola di risposta alle sue confidenze. La salvò il signor Allenby, che stava organizzando il corteo per accompagnare l'uscita della sposa. Formò attorno al tavolo della sacrestia una spirale di coppie incongrue. Lo sposo e la sposa, Parker e Frederica, Alexander e Winifred, Marcus e la madre di Daniel. Diede il segnale all'organista e li ricondusse dentro la chiesa. Daniel dispensava sorrisi in giro per la chiesa. La sentiva più sua nell'attraversarla come novello sposo di quanto non gli succedesse nei giorni normali quando distribuiva strette di mano in qualità di vicario. Si sentiva un conquistatore. Ce l'aveva fatta, contro ogni previsione. Sua moglie camminava al suo fianco negli abiti ondeggianti. Lui avanzava baldanzoso, quasi saltellando. Si girava a destra e a sinistra, faceva cenni di saluto a questo e a quello e ringraziava contento. Raggiunsero il portico, dove si fermarono per qualche minuto, in due, in tre, in gruppetti, per le fotografie. Daniel disse a Stephanie: «Che mia madre ti raccontava come, dove e perché. A quanto pare è convinta che non si riesca a credere di essere davvero sposati se non quando si è morti o qualcosa del genere. Dipende dalle persone. Dubito che lei abbia mai voluto saperlo. Penso che ci metteremo un po' di tempo per capire cosa ci è successo, ma non così tanto, spero. Comunque, finora mi è piaciuto». «Davvero?» «Certo, ce la stiamo cavando bene. È molto divertente». Stephanie gli prese la mano e alzò gli occhi verso di lui, e tutte le macchine fotografiche opportunamente scattarono. Daniel includeva sua madre nel piacere che gli procurava l'impressione di solidità delle persone che lo attorniavano. Stranamente, non aveva provato ansia o imbarazzo sentendola parlare con Stefani della sua obesità e delle sue convinzioni religiose. Anzi, aveva provato una travolgente, comica allegria. Era lì, sposato come aveva scelto di essere, e lei era sua madre. La sua piccola mamma, con il corpo piccolo, ora squadrato in forme sulle gambe esili arcuate e le caviglie gonfie, e una rigida permanente che dava forma ai capelli radi. Daniel li ricordava quando erano morbidi riccioli d'oro, oggetto di grande ammirazione che le aveva precocemente meritato il titolo di bellezza. Si era agghindata con un vestito che non gli piaceva, ma una parte di lui era felice di vederla così com'era e di esserne cosciente. Era felice anche di sapere che, e come, quelle ciocche grigie un tempo erano state d'oro. Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.